Ciao, sono Stefano, ho 34 anni, sono nato e vivo a Napoli, e nella vita faccio il ricercatore e il fotografo.